Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Io sono cresciuto schiavo di un antico e quanto mai inattendibile luogo comune, che quando si è alla guida di un'automobile bisogna diffidare moltissimo delle persone che guidano col cappello, delle suore e di una serie di altre categorie che non posso citare per non essere accusato di discriminazione di automobilisti. Ma in realtà in Italia esiste una facilità estrema di lasciarsi andare da comportamenti civili, dalle osservanze minime del codice stradale, dall'attenzione, e è molto frequente che persone del tutto insospettabili diventino degli animali quando sono alla guida, e questo, la risultanza di questo è un numero altissimo di incidenti stradali. Quali sono le cause degli incidenti stradali in Italia? Noi siamo spesso soffermati con personale dell'ACI su questa domanda. E si è visto che molte volte gli italiani si mettono alla guida, probabilmente perfettamente a regime per quanto riguarda l'etilometro, ma magari imbottiti di psicofarmaci o di tranquillanti o con uno stress emotivo che non riescono a gestire. Vi è mai capitato di vedere persone che parlano e gesticolano mentre stanno guidando? Voi pensate stanno al telefono? No, non sono al telefono, parlano da soli. Beh, anche di questi forse bisogna imparare a diffidare. L'uomo, 55 anni, proveniente dall'autoporto di Fernetti, si è immesso in autostrada contromano, procedendo per alcuni chilometri in direzione Trieste e travolgendo tre automobili che marciavano nel senso opposto. Secondo quanto accertato dai rilievi dei carabinieri, una Fiat 500, sulla quale viaggiavano cinque giovani, ha sbandato e girato su se stessa, andando a invadere la corsia opposta. Stavano tornando da una festa intorno all'1:30 di notte in sella al loro scooter lungo la statale 640 in contrada Maddalusa da Grigetto, quando sono stati travolti da una macchina. Lo schianto è stato terribile. Il suo tasso alcolico era quasi sei volte superiore al limite massimo fissato dalla legge e ora Lidian Bascia è indagato per omicidio colposo plurimo per la morte degli amici. Questa mattina vorrei che si confermasse ogni pregiudizio. Se esiste una prova numerica di tutti i nostri pregiudizi riguardo alle categorie a rischio che causano o che sono protagoniste di incidenti stradali. Noi viviamo in una caterva di luoghi comuni rispetto agli automobilisti. Una delle più accreditate, più antiche, che risale ai tempi gloriosi della Fiat Duna, è quella dell'automobilista con cappello in testa. Segue a ruota la suora o l'automobile piena di suore. Poi in effetti su questo probabilmente qualche fondo di verità, almeno sulla prima categoria, c'è. Avete sentito in questa copertina iniziale, il procedere contromano all'autostrada è una pratica piuttosto usuale. Io mentre ascoltavo la scheda ho digitato contromano autostrada su Google e vedo una fila di notizie. Contromano autostrada, auto contromano autostrada in varie città d'Italia. In particolare mi colpì, perché ho voluto fare questa trasmissione, una notizia di lunedì. Lunedì un pensionato di oltre 80 anni, al volante di una Fiat Uno, è partito da Torino, all'altezza della rotatoria d'Italia 61, si è infilato sulla tangenziale contromano. È andato avanti tranquillo per un po' di chilometri, finché tutti gli lampeggiavano, gli suonavano, passavano sgommando contromano, lui tranquillo, proprio nemmeno si scomponeva, finché finalmente sono riusciti a bloccare il traffico, sono intervenuti e l'hanno bloccato. Ecco, come può accadere una cosa del genere? Che una persona chiaramente non nella perfetta lucidità fa qualcosa. Qual è il punto di rottura? Perché persone in stato di ubriachezza, in stato etilico, perché persone che non sanno guidare, perché persone con probabili e profondi problemi di gestione della propria emotività guidano l'automobile? Esiste secondo voi una categoria a rischio di automobilista? Beh, questa mattina, sgombrando la facezia e il pregiudizio, vorremmo vedere quanto questo è possibile. 800 24 0024. Gli stranieri rischiano il doppio sulle strade del nostro paese, dove il 6,4% degli automobilisti italiani è coinvolto in un incidente all'anno, mentre per gli stranieri la percentuale sale fino al 13,5%. Se argentini, francesi e tedeschi superano di poco la media italiana, tunisini, ucraini, romeni, marocchini e moldavi sono esposti a un pericolo maggiore. I più a rischio sono gli egiziani, i peruviani, gli albanesi e i cinesi. Ecco un primo dato. Un primo dato che devo subito liberarlo da ogni pregiudizio di intento di discriminazione etnica. Questi sono numeri. Non vogliamo dire che gli stranieri in Italia, oltre a fare tante cose, vanno anche in maniera pazza sulle automobili e quindi creano incidenti. No, obiettivamente c'è un problema anche legato agli stranieri. Vengono da altre situazioni, da altri tipi di automobili, abituati ad altri tipi di traffico, in paesi in cui probabilmente esistono altre regole o non esistono regole, e quindi sono anche loro pregiudizialmente, naturalmente, ma anche concretamente, in testa alle classifiche delle categorie a rischio. Ma non sono soltanto loro. Gli incidenti stradali nel 2011 hanno comportato in Italia 3.860 morti, 292.019 feriti e un danno sociale per oltre 28 miliardi di euro, pari a circa il 2% del PIL. Gli stranieri residenti nel paese sono 4,75 milioni, di cui 2,6 muniti di patente. 1,4 milioni l'hanno conseguita con una scuola guida in Italia. Possiedono più di 2,7 milioni di automobili e oltre 250.000 moto. 800240024, qual è il vostro punto di vista? O se voi appartenete alla vastissima categoria degli stranieri che ascoltano Radio 24 a quest'ora e spesso ci chiamano, raccontateci come mai esistono questi numeri per cui gli stranieri in Italia hanno più problemi di guidare di tanti italiani. Non voglio assolvere gli italiani, che poi sono farabutti, sono scellerati, non conoscono il codice, non lo rispettano, sono maleducati, si fanno, bevono, tutto quello che volete, però vorrei capire nel particolare perché, cosa ci sia dietro questo problema. Intanto Lorenzo, buongiorno. Buongiorno, come dicevo la centrale di vista, sì. Non è capitato 2 anni fa, stavo prendendo la CISA, io faccio l'autista, poi sono entrato in autogrill, vabbè, ho bevuto, sono uscito, nell'uscire vedo che sono usciti anche 2 anziani, prendo la macchina, sono stato lì proprio a guardarli perché ho capito che questo qua non riusciva bene a capire, cioè non ho fatto in tempo, sul camion questo qua stava entrando praticamente al contrario. Cioè hanno imboccato contromano sulla autostrada, sì, classico. Stavo uscendo, sono riuscito a scendere dal camion, corregli dietro e li ho fermati appena in tempo, stava proprio prendendo al contrario 2 anziani. E comunque su questa cosa è il contrario, io faccio spesso la Svizzera e sento la loro radio, in Svizzera succede molto spesso, perché io sento la loro radio. Quindi non è un problema nazionale, esiste in realtà una cautela maggiore che ci dovrebbe essere nei confronti di... Intanto cominciamo dalle persone anziane, questo è il problema, secondo lei? È caduto, è morto. Giuseppe. Buongiorno. Giuseppe, buongiorno, sì. Buongiorno, io volevo intervenire per due motivi specifici. Uno, perché mio papà ha un'età simile a quella del signore che ha causato questo danno. E poi perché la tratta che avete, diciamo, menzionato, io la conosco e un mio ex titolare si è trovato nella stessa situazione, ha trovato un automobilista che gli veniva contromano, quindi probabilmente lì c'è un problema sicuramente anche di segnalazione stradale probabilmente non adeguata. E poi per quanto riguarda la guida di persone anziane, io non le nascondo che le ultime volte che mi è capitato di prendere la macchina con mio papà, che è ultra ottantenne, mi sono venuti i brividi. Se la faccia sotto, accade, sì. Ci arriveremo tutti, spero in buona salute, però in effetti io ho visto di persona cosa accade nel momento del rinnovo. C'è una fila di vecchietti, vanno a un ufficio del municipio, passano, gli mettono un timbro, se ne vanno. Diciamo che l'entrata e uscita è piuttosto drammatica. Uno si dice, ma poi queste persone avranno un'automobile in mano, potranno guidare, andranno per strada, cosa succederà? Bisogna avere una grandissima pietà nei confronti di queste persone, ma anche considerare che le strade in realtà non sono un giocattolo. Chiara? Buongiorno, sì. Buongiorno. Io volevo portare una testimonianza da figlia di una persona ultraottantenne che è ancora molto, diciamo, efficiente, ma io quando sono accanto a lui alla guida rabbrividisco e quindi spesso ho pensato di forzare in qualche maniera l'abbandono della patente, dell'uso dell'auto, e che ovviamente queste persone, che comunque si sentono ancora efficienti, difficilmente condiscendono a questo abbandono. Problema si vede, il problema si nota. Non volevo essere crudele verso categorie che già in sé sono deboli e poco protette, come gli stranieri e gli anziani, esatto. Però il problema c'è obiettivamente. Sì, sì, c'è, perché le dico, io ho evitato ora di lasciare andare, per esempio, per tutela del mio bambino che è piccino, non lo affiderei mai più alla guida del nonno. Lei col pifero lo manderebbe in macchina con il nonno, ecco. Insomma, anche perché quando... Però pensi che il nonno, però, quando va per strada, mette a rischio anche altre persone, altri bambini, esatto, e non solo il esatto, suo. Esatto, esatto. Quindi lei cosa proporrebbe, per assurdo? Ma, allora, per assurdo, una specie di analisi, cioè quando queste persone arrivano a questo grado di non efficienza in strada, ripeto, perché poi sono persone che possono andare ancora moltissimo. Assolutamente. In tutti i sensi. Però ci sia un limite, forse, d'età che si può individuare per statistica, per pericolosità. Magari poi questa gente non fa tanti incidenti. Io ho avuto una nipote che ha perso là un arto per una persona che viaggiava contromano e non era un anziano, era un balordo. Quindi abbiamo una testimonianza in casa che è forte di quello che può succedere in strada. Purtroppo però quando vedo questi mancati stop, questi rossi sorpassati, io penso sempre che queste persone che non sentono bene, non vedono, hanno dei riflessi un po' lenti, cerchino di non essere... Allora, lei ha provato a accennare a suo padre il fatto che forse... Ma... E lui cosa dice? No, non è... No, non si può, non è possibile. Questa cosa è un'offesa all'integrità, all'efficienza, alla forza, alla vita, sembra quasi un'offesa quasi all'integrità. Diciamo che per tutte le efficienze possibili... La farmacopea ha fatto passi da gigante. A 80 anni uno si prende il Viagra e gli sembra adesso un ragazzino, ma per dare, diciamo, gli stessi riflessi, la stessa, diciamo, efficienza da guida, ancora non è stato inventato nulla. Forse bisognerebbe riflettere su questo. Grazie, Chiara. Bene, andiamo. Io, Costantino, l'ho tenuta in silenzio fino adesso, che volevo che avessero l'idea di quanto questo problema è sentito. In pochi istanti già siamo pieni di telefonate. Abbiamo due persone che possono aiutarci perlomeno a capire da che parte sia il problema. Non è detto possiamo avere la soluzione. Ho in studio Lucia Pennisi dell'area statistica dell'ACI. Buongiorno Lucia Pennisi. Buongiorno. E in studio anche ho Lucia Vecero dell'ufficio studio dell'Automobile Club d'Italia dell'ACI, studi e ricerche, che sono, diciamo, le due funzionarie che ci aiuteranno questa mattina. Lucia Vecero, vediamo se riusciamo a capire da quello che è la prima reazione. Noi siamo partiti dando dei dati sugli stranieri come categoria a rischio, anche su questo potremmo dire qualcosa, ma è emersa subito come prima epidermica reazione il fatto degli anziani che sciaguratamente ancora guidano l'automobile quando non hanno più diciamo, l'efficienza necessaria. Qual è il punto di caduta secondo lei? Buongiorno, allora questo è veramente un argomento su cui si sta riflettendo molto, non soltanto in Italia ma anche all'estero, perché la nostra è una società che sta invecchiando e ci sono due problemi antitetici. Uno è quello degli anziani che chiaramente hanno la necessità, siccome spesso non hanno neanche una rete familiare che li può assistere, di mantenere il più lungo possibile una propria autonomia. E consideriamo che spesso l'anziano non vive in città, ma vive in piccoli centri, dove quindi la macchina è l'unico mezzo per poter mantenere un contatto sociale e avere una propria autonomia. Fare la spesa, andare a farsi gli esami, le visite, e anche avere il diritto di godersi la vita, quindi muoversi, logico. Sì, anche andare al bar, al caffè, con gli amici. E quindi questo non ci piove. Però è fondamentale riuscire a garantire alle persone anziane la possibilità di verificare il loro stato, cioè anche nel loro interesse, di capire se effettivamente possono ancora, in totale autonomia, prendere un veicolo e non essere un pericolo per sé e per gli altri. In più c'è un'altra riflessione da fare. I veicoli che in questo momento sono in distribuzione, bellissimi, efficientissimi, sono abbastanza complicati e gli anziani hanno preso una patente spesso con delle nozioni proprio anche di meccanica, di fisica, eccetera, ormai superate rispetto ai veicoli. Le posso dire una cosa, Lucia Vecero? Io ancora non sono proprio anzianissimo, però ho preso la patente nei felici anni 70, qualcosa del genere. Ho avuto la fortuna di andare a Vallelunga a fare il corso di guida sicura, che penso che organizzate voi così, ma adesso non lo dico per smarchettarvi, lo dico perché mi sono accorto che non sapevo guidare, mi sono accorto che ancora pensavo che l'automobile avesse il freno motore e quando si rallenta bisogna scalare le marce. Ho capito che in effetti non capivo nulla. In un giorno mi sono reso conto di essere un analfabeta. Quindi immaginiamo un ottantenne che avrà preso la patente sulla 500, tutta la vita avrà guidato la Duna, poi sarà passato alla Fantastica 1. Quale sia il suo problema oggi nel guidare un'automobile, magari con l'ABS, con tutti i sistemi di sicurezza, che se uno non li sa usare è come non averceli. Esattamente questo. Noi come ACI abbiamo fatto dei corsi proprio di aggiornamento per gli anziani presso alcuni circoli su tutto il territorio e abbiamo riscontrato proprio questo, l'interesse assoluto ad avere informazioni su come funzionano questi meccanismi, perché cambia l'assetto, perché sono cose che possono creare il panico, quindi in un momento di distrazione o semplicemente anche un momento di stanchezza, quella che può essere una reazione più veloce di una persona più giovane o che più, diciamo, è cresciuta già con queste tecnologie, chiaramente crea un'ulteriore problematica. Io mi sono sentito dire da una persona che aveva frenato a secco, aveva sentito il tipico effetto che fa l'ABS, cioè si stavano rompendo i freni, perché non sapeva che quello era normale e necessario. Ecco, ma allora quale sarebbe la soluzione? Come si fanno i telefonini semplificati, il salva la vita, un'automobile per gli anziani, senza cambio, tranquilla, con un freno gigantesco, con una, non so, un parabrezza lenticolare che ingrandisce, quale potrebbe essere la soluzione? Beh, secondo me oggi come oggi sono tecnologie tali per cui effettivamente potrebbero esserci delle soluzioni di semplificazione anche in questo senso. E per assurdo, in realtà ci potrebbe essere anche un interesse dell'industria, perché un'auto semplificata potrebbe essere anche, diciamo, la prima auto di una persona molto giovane che inizia la guida, che quindi ha una potenza ridotta, che ha un sistema molto semplificato e che quindi può essere una forma di avvicinamento a quella che è un'esperienza di guida. Quindi non è detto che in realtà giovani e anziani non possano avere le cose in comune. Le faccio un'altra domanda. Oggi la macchinetta che è stata pensata e immaginata per far guidare l'anziano è il primo strumento di crimine del giovane fighetto, purtroppo è questo in Italia il problema, che prende la porta al meccanico, la fa elaborare, quindi ha una macchina di distruzione in mano, non più una macchina sicura. Quello che avevo detto prima è una mia esperienza visiva ma non approfondita, quindi non posso portarla come prova, è, diciamo, la maniera un po' superficiale di fare questo esame all'anziano che va a rinnovare la patente. Chi ne è responsabile, come viene fatto questo esame e quale strumento c'è per verificare l'attitudine a poter continuare a guidare? Diciamo che da questo punto di vista... Io ho visto una persona metteva un timbro e basta, dico, sono molto sincero. Allora, diciamo non dovrebbe essere così in realtà, e peraltro c'è stato un grosso dibattito anche a livello parlamentare per modificare la normativa che riguarda appunto il rinnovo della patente per le persone che hanno superato i 70 e gli 80 anni. Era stata inserita prima l'obbligo di fare una visita con una commissione, che è stata tolta perché era una, diciamo, una complessità burocratica molto elevata. Però salvava la vita a un sacco di gente. È stata sostituita con un'indicazione che, diciamo, è quella presente in tutta Europa peraltro, cioè il fatto che il medico di famiglia, quindi la persona che dovrebbe conoscere nel miglior modo possibile il paziente, ha l'obbligo di segnalare ora se ci sono delle patologie che possano compromettere quelle che è le capacità appunto di percezione, di reazione, e quindi anche... Figuriamoci se un medico di famiglia fa un certificato contro il suo stesso paziente. Però se succede un incidente e dopo si verifica che era una patologia nota e che gli effetti di questa patologia avevano appunto delle conseguenze, poi il medico potrebbe rispondere con una colpa professionale, quindi non è esattamente una cosa su cui mantenere il rapporto tra virgolette di amicizia con il proprio paziente. 800240024, stiamo passando a un altro degli aspetti che stiamo toccando questa mattina, ce ne parla Johnny. Buongiorno Johnny. Buongiorno Radio 24 e tutti gli ascoltatori. Io vorrei dirvi la mia esperienza. Io sono un camionista di linea, facevo l'estero, diciamo l'Inghilterra, che là sappiamo bene che si guida a parte opposta, quindi caricavo su una fabbrica, mi mettei a dormire, il giorno dopo mi alzo, a mattina parto uguale come se fosse era la guida europea, diciamo in Italia. È imboccato contro mano. Cioè, bene o male non era una superstrada, ma era una strada normale che quello mi lampeggiava, io li lampeggiavo, ma questo che vuole, dicevo io. Ma lei Johnny, lei da dove viene? Io sono un cittadino albanese, ma cresciuto in Italia, preso le patente in Italia, voglio dire, non è che... Però per un caso o un altro magari, cioè io straniero in... Cioè straniero, può essere che io italiano magari... E in Inghilterra sbagliai la parte della guida, perché era giustificato, Johnny. Bisogna essere ben lucidi quando si sta al volante, soprattutto. Maria, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno. Sono perplessa per quello che sto ascoltando. Capisco che si andrà senz'altro incontro a dei sistemi diversi di valutazione dell'anziano, no? Però la domanda è E che si fa? Per dire, io come tanti altri vivo in una zona pedemontana dove i servizi pubblici praticamente non arrivano, e questo vale per me come per tantissime altre persone. Siamo, la popolazione è sempre più anziana, va bene. Ora, io mi sento perfettamente in ordine, ripeto, ho avuto... Posso chiedere, Maria, quanti anni ha lei? 70. 70? Sì, 7-0. Ah, 7-0. Beh, ancora non è che sia proprio, diciamo... No, ma insomma, sono un padre di 100 anni e ha smesso di guidare a 90. Io, a 90 anni guidava ancora suo padre? Sì, era... Senza fare vittime? No, non ho mai avuto un incidente mio padre. Nemmeno io faccio le corna, ma sono abituata a guidare macchine... Ho avuto la Watts e la Lada Niva, non è che proprio macchinine facili da reggere e da tenere... Cioè, si forniva sempre oltre cortina lei per l'automobile? Era più sicura? Sicure nel senso che per un prezzo ragionevole ti davano delle macchine da, certo, da strapazzo. Capito dove voglio dire? Sì, io ci lavoro con la macchina, come col trattore, insomma, ecco. Sì. E forse col trattore magari c'è più sicurezza, almeno, diciamo. Va bene, grazie Maria. Andiamo al punto. Allora, Lucia Vecere, ufficio studi A, ci ha parlato. Lucia Pennisi, area statistica. C'ho due Lucie, quindi faccio un po' di confusione. Area statistica dell'ACI. Abbiamo dato qualche numero all'inizio, abbiamo visto che non soltanto gli anziani, ma anche gli stranieri rappresentano un problema. Come avete elaborato questi dati? Dietro questi dati quale realtà c'è? Soprattutto qui mi sembra che la soluzione sia più semplice, mentre rispetto agli anziani c'è un problema sociale molto difficile. La mobilità dell'anziano comunque deve esserci qualcuno che provvede, soprattutto se l'anziano non ha degli ammortizzatori familiari. In realtà per gli stranieri forse il problema è più risolvibile, si tratta semplicemente di dare degli strumenti. Sì, senz'altro, i numeri che abbiamo sentito prima sono numeri sull'incidentalità degli stranieri in Italia e sono tassi che ci erano stati gentilmente forniti dall'ANIA, però noi abbiamo elaborato anche degli altri dati sugli incidenti più gravi, quelli che comunque in cui rimangono coinvolti anche ci sono dei morti. E abbiamo visto che un incidente su 6 vede la presenza di un conducente straniero. È un dato che preoccupa questo. Adesso, nella media fa riflettere un dato del genere. Beh, sì. È un dato che fa riflettere perché si tratta non solo di vetture straniere, quindi i turisti che vengono in Italia e che vengono per la propria auto e vengono coinvolti in un incidente, ma soprattutto molto di più di conducenti stranieri residenti in Italia, quindi alla guida di autovetture italiane. E soprattutto diciamo, abbiamo visto anche quali sono le nazionalità più rappresentate, tra cui per esempio ovviamente queste avranno un riscontro sulla presenza di stranieri in Italia. Infatti troviamo romeni, albanesi, Marocco, Cina, ma anche svizzeri, tedeschi, tra le nazionalità più rappresentate in questi conducenti. Allora, noi ci fermiamo soltanto un istante, che dobbiamo dare le informazioni della borsa, ci stanno chiedendo la linea. Riprendiamo fra poco un istante per capire più nello specifico cosa ci sia dietro questi dati e soprattutto qual è il possibile intervento. Melog, la realtà condivisa. Stiamo parlando con due signore dell'ACI Automobile Club d'Italia, quelle che sono le categorie a rischio degli incidenti in Italia. Sono emerse dalle telefonate dei nostri ascoltatori un primo problema che è legato alla perdurare alla guida di persone che in realtà non hanno più riflessi, la lucidità, la capacità, la conoscenza delle nuove tecnologie dell'industria automobilistica per essere realmente, concretamente sicuri. Poi si è parlato degli stranieri. Gli stranieri, per varie ragioni che adesso cercheremo di capire, che non derivano certo dalla loro etnia, ma dalla situazione delle strade, degli automezzi, dalle loro parti, dei codici e via dicendo, sono una categoria abbastanza rischiosa sulle nostre strade. Poi voi ne conoscete altri, siamo qui ad aspettare. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo dire questo, sono un automobilista che più o meno fa dai 50 ai 60 mila chilometri all'anno e viaggio spesso sulle autostrade. Secondo me le categorie anche a rischio sono proprio... più che definirla in una categoria, sono proprio le persone in generale che stanno perdendo, secondo me, il rispetto verso gli altri e quindi commettono atti assurdi in autostrada, ti tagliano la strada per poi prendere il frenare di colpo e prendere l'uscita, continuano a parlare col telefonino o in mano, non rispettano le distanze di sicurezza, a 150 all'ora ti trovi uno che è dietro a 3 metri, ma o sono tutti distratti queste persone, distratte, oppure sono veramente irrispettose, è forse un po' lo specchio anche della nostra società. Lei dice c'è un malcostume talmente generalizzato che è un po' difficile parlare di categoria a rischio. Il sì, telefonino in mano è ancora vero, ancora meraviglio come mai, con i fantastici viva voce che ormai sono forniti in ogni automobile, nemmeno un extra si trova di serie, ma lo stesso telefonino al suo viva voce, credo ancora stronzi e stronze con il telefonino in mano alla guida, mi sembra assolutamente impossibile, mi si scusi la parola, non trovo maniera migliore per definirli. Zoran, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire, puntare su un'altra cosa. Lei Zoran, secondo me, da dove viene Zoran? Sono serbo. Lei sono serbo. Sì, ecco. Per me, il patente serba per esempio non è consentito a convertirla in quella italiana, bisogna far tutto da capo come ho fatto io. Ha dovuto ridare gli esami per la patente? Sì, invece tutti gli altri paesi che avete citato, Romania, Moldavia, Marocco, cioè a loro è consentito, basta andare in motorizzazione e convertire quella sua in patente italiana. Invece in Europa non è così, per esempio in Austria bisogna fare un esame di guida prima di convertirla. Chi veramente può dire se quello lì effettivamente ha fatto patente in suo paese o no, ha avuto la macchina o no, sa guidare o no, ecco, per me è qui il problema. Allora, sentiamo Lucia Vece dell'Ufficio Studi e Ricerche dell'ACI. Qual è la situazione nei paesi stranieri per conseguire la patente, per attribuire l'abilità a guidare? E quando una volta gli stranieri vengono in Italia, secondo lei qual è il problema per cui poi sono protagonisti incidenti? Ci c'è Zoran, dice, io ho dovuto ridare l'esame, magari vengono da altri paesi e con la patente che hanno preso nel loro paese possono guidare tranquillamente. Allora, esiste, capisco qual è appunto la domanda che si fa a Zoran, esiste una normativa però di carattere europeo che si chiama appunto patente europea, che consente questo riconoscimento, questa reciprocità nel riconoscimento delle patenti estere, e quindi effettivamente la Romania, il Marocco, come abbiamo detto, sono quei paesi che hanno fatto questo tipo di riconoscimento, hanno attuato questo tipo di normativa, ma d'altra parte anche l'Inghilterra, cioè l'Austria la sta ancora, deve ancora recepirla. La Romania, per esempio, deve ancora riceverla, e quindi al contrario noi accettiamo ma loro non accettano. Però è una cosa che diciamo andrà a regime, quindi da questo punto di vista la peculiarità è semplicemente perché, essendo una direttiva europea, ci sono dei tempi tecnici, questi tempi sono dati per l'adeguamento dei paesi a questa normativa che hanno comunque scelto come Parlamento europeo, perché è una direttiva della Commissione, ma in realtà ha avuto anche un giudizio positivo da parte del Parlamento europeo. Quindi per la lei mi insegna, sì. Teoricamente sono principi ispirati alla massima liberalizzazione, all'apertura delle frontiere, via dicendo, poi quando uno li va a applicare all'atto pratico e li va a applicare in diverse situazioni territoriali come diversi paesi, vengono fuori i problemi. Assolutamente sì, anche perché il maggiore e minor rigore nell'effettuazione degli esami per la patente chiaramente dipende da una tradizione di attenzione alla sicurezza e alla mobilità che non è esattamente la stessa in tutti i paesi, quindi c'è ancora molto da fare in questo senso, e quindi da questo punto di vista effettivamente uno degli elementi che appunto può essere un fattore della maggiore incidentalità da parte degli stranieri in Italia è sicuramente questo, cioè la minor conoscenza o la minor attitudine all'attenzione ad alcune regole di comportamento di guidare in sicurezza. Peraltro c'è anche un problema, questo comune proprio, di lettura della segnaletica, perché la segnaletica in Europa non è uguale e quindi non è semplice adeguarsi velocemente a quelle che sono appunto sia la segnaletica verticale, cioè i cartelli, sia soprattutto quello orizzontale, che è veramente quasi ignota in molti paesi. E questa è un'altra fonte di incidentalità molto, diciamo, seria. Questo, se ci aggiungiamo anche il problema della manutenzione della segnaletica in Italia, che è un problema reale, capiamo di qual è la dimensione di questa problematica. Peraltro poi ci sono anche, diciamo, attitudini diverse sul concetto, per esempio, della pericolosità della guida veloce. in alcuni paesi la guida veloce è considerata su autostrade, eccetera, una componente normale della guida, perché le infrastrutture sono diverse. Per noi chiaramente le regole sono, salvo per alcune situazioni diciamo ottimali dove abbiamo la terza corsia sull'autostrada, completamente diverse. E anche abituarsi a questo, soprattutto per chi per esempio nel lavoro si occupa di autotrasporto oppure di trasporto di persone, però a livello professionale chiaramente diventa un'altra componente di rischiosità. Altri mi dicono, parlando con persone che si occupano appunto di questi corsi per gli stranieri, che molte volte in molti paesi, ad esempio, il cambio non automatico che usiamo noi perché ci piace scalare le marce e smanettare anche in automobile, è una cosa totalmente sconosciuta. Gente che ha guidato tutta la vita con un cambio automatico monta sulla nostra automobile e si trova svantaggiato. È vero anche il contrario. Io per esempio guido da alcuni anni una macchina con un cambio automatico. Per abituarmi al cambio automatico, che ha un tempo di ripresa, per esempio nel sorpassi, nell'accelerazione e anche nella frenata, chiaramente dipende dal tipo di veicolo che si ha a disposizione, completamente diversi però, e quindi anche la sicurezza nel fare le manovre cambia completamente, e questo a maggior ragione se si è abituati al contrario, con una macchina col cambio automatico originariamente si passa il veicolo a marce, diventa quasi un'impresa riuscirlo a governare in modo corretto, soprattutto nella prima settimana che si è alla guida. Quindi... Sentiamo Sergio. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Moldavo, Sergio Moldavo. Sì, esatto. Io sono andato in Moldavia a casa, cioè con i miei amici italiani. Da noi, cioè, sembra un campo di battaglia lì, non c'è rispetto, non ci sono le segnaletiche, non sono riusciti a guidare, ho guidato io. Quindi per me è molto facile guidare qua in Italia, non è vero che c'è qualche problema di segnalazione qua in Italia o manca, figuriamoci cosa succede in Moldavia. È un problema secondo me di... Cioè, no, però scusi Sergio, Sergio, sì. Lei è una persona cosciente, è vero anche il contrario, uno che è abituato a il campo di battaglia della Moldavia in Italia pensa possa essere la stessa cosa. Sì, però per esempio parlo di me, io a volte sono troppo sicuro di me, per quello faccio dei errori. Ad esempio? Cioè, io la penso, per esempio ho fatto un incidente, avevo una rotonda davanti, non c'era nessuno, cioè avevo una macchina davanti, ma sulla rotonda non c'era nessuno, quindi io nel mio pensiero ho detto non si fermerà la rotonda se non c'è nessuno, io ho guardato a sinistra, non veniva nessuno, invece no, la persona davanti si è fermato, non so per quale motivo, l'ho tamponato. Perché è un umarell che chiaramente pensa che nelle rotonde bisogna fermarsi, e però lei deve tenere la distanza. Per dire, cioè, non è un problema comunque di segnaletica, che in Moldavia per esempio ci sono diverse segnaletiche, quello che volevo dire, quindi non è... Cioè, per me qua è molto facile guidare, mi sembra tutto chiaro, il mio problema è che mi sento troppo sicuro spesso. Allora... Mette le cartelle, Fabrizio, intanto bisogna fermarsi e passano mai, se la rotonda è completamente vuota uno passa, se no, per questa rotonda non è uno stop, sbaglio? Dico giustamente? No, giustamente bisogna comunque rallentare, accertarsi che ci si possa immettere nella rotonda, però poi non è necessario, sì, non c'è il problema uno stop, quindi non è necessario. Però la rotonda è un problema in Italia perché non sappiamo bene come ci si comporta. La gente si ferma a metà, non sa se uno deve passare, se deve passare. Esatto. È questo normalmente problema. La precedenza sulla rotonda ce l'ha chi già è nella dentro. Rotonda, chi già è dentro, però questo non è ben chiaro a tutti gli automobilisti, anche italiani, insomma. Qua diceva l'ascoltatore di una rotonda vuota, non c'era nessuno, quindi la persona davanti doveva passare, evidentemente si è messo lì, in ha fatto caso. Un autostop senza che ci fosse lo stop scritto per terra a metà rotonda, e il nostro amico Sergio gli è andato addosso, l'ha tamponato. È pure vero che ci insegnano che bisogna comunque tenere la distanza di sicurezza ed essere pronti a fermarsi anche se l'autovettura davanti si ferma improvvisamente senza nessun motivo apparente. Viene dalla Moldavia dove in realtà il gioco è l'autoscontro, e quindi naturalmente non era pronto a questo. Melog, la realtà condivisa. Ci eravamo lasciati parlando delle difficoltà di un nostro ascoltatore che dice: nel mio paese andare in automobile è come andare in una giungla senza regole, arriviamo da voi, ci sono delle regole e qui naturalmente bisogna adeguarsi. Ma allora a questo punto, Lucia Pennisi, ricordo area statistica dell'ACI, cosa state facendo voi rispetto a questo problema, visto che l'incidenza di incidenti in cui sono protagonisti i cittadini stranieri non è certo da trascurare? Allora, noi stiamo facendo dei corsi... Anche perché molti ci stanno chiedendo che dobbiamo fare. Noi stiamo facendo dei corsi di guida sicura, in particolare per gli stranieri, quindi sono proprio modulati sulle problematiche che possono avere anche gli stranieri nel nostro paese. E ci siamo proposti di formare 3.000 persone in 3 anni, che siano 3.000 ambasciatori di guida sicura tra gli stranieri. L'idea è proprio quella che ogni persona formata poi nella sua comunità si faccia portavoce di quello che ha imparato e quindi che questa formazione via via si allarghi, un po' proprio come quando gettiamo un sassolino nell'acqua che forma dei cerchi concentrici e vada man mano ad estendersi nelle comunità di stranieri che vivono in Italia. Quindi siete collegati con le varie comunità, diciamo, che rappresentano le popolazioni, con le ambasciate e con le varie comunità. Questi corsi, voglio dire, sono totalmente gratuiti e quindi ci si può candidare anche a partecipare a questi corsi attraverso o gli Automobile Club della sede provinciale dell'Automobile Club o direttamente con il nostro centro di guida sicura di Vallelunga, anche collegandosi al sito www.vallelunga.it o con la società che ci aiuta nell'organizzazione, quindi collegandosi al sito dmaservizi.com. Quindi riassumo, allora, se gli stranieri sentono in loro il problema di aver qualcosa da imparare gratis, senza pagare nulla, possono andare all'ACI, l'ACI gli fa un corso di guida sicura, gli insegna tutto quello che insegnare, a loro volta loro chiameranno i loro connazionali e diranno: guarda, ho capito qualcosa, ho appreso qualcosa, è tutto gratis. Si candidano a partecipare. Noi già nei 6 mesi, il secondo semestre dell'anno scorso, abbiamo fatto questo corso di guida sicura e quindi formato 1.300 ambasciatori della sicurezza stradale di diverse nazionalità, per esempio Sri Lanka, Romania, Marocco, Polonia, Albania, Ucraina, Filippine, quindi le varie nazionalità e comunità che vivono in Italia. E questo programma continuerà quest'anno, anzi proprio questa mattina presentiamo tra poco il programma per i prossimi 18 corsi di quest'anno, che saranno frequentati da 60 persone ognuno. Quindi, vabbè, mi sembra questa almeno è un'iniziativa che in parte ci rassicura sul problema, lasciando poi scoperto l'aspetto anziani, che vedo che è fra i più impellenti. Gli stranieri comunque possono gratuitamente fare un corso, imparare, poi se gli va lo insegnano ai loro colleghi. Fabio, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Genova, faccio l'avvocato e chiamo perché mi occupo principalmente di infortunistica stradale e danni alla circolazione. Quindi molto spesso mi capita, cioè il dato che avete dato all'inizio è capita di trovare conferme, perché c'è una grande incidenza appunto di sinistri causati da stranieri. Però quello che volevo aggiungere è che probabilmente noto spesso che gli incidenti vengono causati anche per le condizioni dei mezzi che conducono. Infatti quando intervengono le autorità rilevano che questi mezzi avevano tutta una serie di problematiche in base alle quali... Cioè diciamo che per problemi di indigenza comprano automobili che sono destinate alla rottamazione, quindi naturalmente con i problemi che conseguono, questa è la sintesi. Di sicurezza. E poi questo determina tra l'altro sempre per l'indigenza anche delle conseguenze sotto l'aspetto del risarcimento, perché molto spesso viaggiano anche privi di copertura assicurativa e quindi anche per il danneggiato poi diventa molto difficile ottenere il risarcimento, in quanto si deve rivolgere al fondo di garanzia vittime della strada e le compagnie d'assicurazione che gestiscono i soldi del fondo, che quindi vengono designati per la gestione dei sinistri, devono avere tutta una serie di requisiti in presenza dei quali effettuare il risarcimento, perché se manca anche uno solo di questi requisiti non procedono al risarcimento. Oppure sì, sì, questo è chiaro. Lucia Pennesi conferma che esiste anche questo tipo di problema. Esiste questo tipo di problema, anche se dai dati che noi abbiamo l'incidenza dei veicoli vecchi, diciamo, rispetto a quelli più nuovi non è così maggiore negli incidenti stradali. C'è da dire che probabilmente i veicoli nuovi comunque camminano molto di più, percorrono molti più chilometri e quindi questo spiegherebbe le diverse, poi, i diversi fattori viaggiare di rischio. Senza assicurazione si rientra nell'area del reato, è un reato, è un reato senz'altro. Abbiamo, cioè ci sono varie, è un problema insomma, su cui si sta riflettendo, perché si stima che ci siano circa 4 milioni di veicoli in Italia in giro senza assicurazione. Questo sentiamo Augusto, sentiamo Augusto velocemente, siamo in conclusione. Augusto, buongiorno. Sì, buongiorno. No, chiedevo dei suggerimenti per gli over 75. Io direi, quando viene rinnovata la patente, basta richiedere nel rinnovo della patente anche una prova pratica su strada, e così si vede come si comporta questa persona anziana che rinnova la patente. Lei guida, Augusto, sì. Io guido dal 54, tra qualche mese, tre mesi faccio 82 anni e non ho mai avuto problemi, non ho mai avuto incidenti. Lucia Vecere, ufficio studi ACI, rispetto alla proposta del nostro ascoltatore, siamo in conclusione, di abbinare una prova pratica. Ci stiamo pensando. Crebbe qualche problema? Non credo assolutamente, anzi l'ACI da questo punto di vista si sta facendo promotore di un'iniziativa di questo tipo, non soltanto a livello nazionale ma internazionale attraverso la Federazione Internazionale dell'Automobile, quindi gli automobili club esteri del settore 1, che sarebbe il settore Europa, perché è esattamente un'istanza che è stata manifestata da molti soci dei club che sono appunto automobilisti e quindi sono i primi interessati in questo senso, perché sono persone responsabili. Quindi anzi accogliamo così questa proposta del nostro ascoltatore, che viene proprio in linea in questo senso. Sì, perché diciamo la verità che un certificato del medico di famiglia e un'occhiata e un timbro del funzionario del municipio ci sembra veramente un po' poco per garantire la sicurezza che un anziano sia in grado di guidare l'automobile. Grazie Augusto, grazie a Lucia Pennisi e Lucia Vecere dell'Automobile Club d'Italia, che oggi lanceranno la loro iniziativa di corsi gratuiti per gli stranieri per imparare a guidare meglio l'automobile e a contaminare le loro comunità con quelli che sono i dettami base per una guida sicura, che noi tutti dovremmo capire, stranieri, anziani, giovani e via dicendo.